Rosciani e Meazza, buongiorno. Sono un ascoltatore di valore planetario e adesso più che mai in questo periodo nelle mie vene scorre più Radio 24 che sangue. Bravi, buon lavoro e buona giornata da Stefano. Perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Conto alla rovescia finale, conto alla rovescia per, beh, non si parla d'altro, per la ripartenza, la riapertura, la possibilità di, non so, fare anche magari una passeggiata un po' più lunga di quanto ci è consentito finora. Ma quando arrivano queste nuove regole? Ma secondo quello che abbiamo sentito anche nel giornale radio, secondo quello che scrivono i giornali, insomma, dovremmo vedere già questa settimana qualche indicazione, perché qualcosa potrebbe anche riaprire o avere autorizzazione a riaprire già dal 27 di aprile, quindi da lunedì. Vediamo che cosa succederà. Naturalmente siamo tutti abbastanza in apprensione per capire se avremo una maggiore libertà di movimento. Probabilmente non servirà l'autocertificazione per muoversi all'interno del comune, dovrebbe invece restare il divieto di spostarsi da una regione ad un'altra. E poi ci sono tutte le regole di cui continuiamo a parlare, ma che ancora, ripeto, non hanno trovato alcun provvedimento normativo, che sono ad esempio il fatto che i mezzi pubblici debbano prevedere un distanziamento già proprio nel posizionamento dei passeggeri, così distanziamento anche negli aerei, nei treni, eccetera, eccetera, eccetera. Vedremo se tutto questo, come suonavano e cantavano gli Europe, sarà davvero il conto alla rovescia finale per quanto riguarda l'uscita almeno parziale dalla quarantena, o, se vi piace di più il termine inglese, il lockdown. Vedo Peter Bescapè attento dall'altra parte del vetro. Oggi, caro Peter, sai che non abbiamo Deborah, abbiamo dato a Deborah un giorno di vacanza che penso dovrà godere tra la cucina e il salotto in qualche modo, perché non abbiamo tanto, tanta facoltà di muoverci, come è noto. Dall'altra parte del vetro pure sorveglia il tutto l'attento Jacopo De Franchi, oggi badante di prossimità per il sottoscritto. E poi naturalmente c'è sempre Marco Lombardo, che da remoto tutto vede e tutto sa e tutto dispone anche per quanto riguarda la scaletta di quest'oggi. Allora, dopo le notizie in breve, qualche notizia in breve del nostro abituale giornale radio del risparmio, naturalmente andremo a parlare di alcuni temi, due in particolare, sui quali vorremmo approfondire. Il primo riguarda il petrolio, perché il petrolio è stato un po' il protagonista di tutta la settimana. Allora abbiamo deciso di interpellare un esperto di valore mondiale, naturalmente, e come sempre una firma nota, una voce nota, cioè si tratta di Davide Tabarelli, il presidente di Nomisma Energia, che ci spiegherà un po' che è successo, che cosa potrebbe succedere, facciamo anche un pochino di meteo petrolio in qualche modo, e anche di meteo carburanti, perché un pochino di sconti, di riduzioni si sono viste, ma dobbiamo anche comprendere bene perché questa del petrolio così basso, del valore del petrolio così basso, è una cattiva notizia e non una buona notizia. Lo spiegheremo tra poco. E poi naturalmente parleremo dei soldi, dei prestiti che sono al momento quelli erogabili. Poi erogabili forse è già una parola grossa. Parliamo dei prestiti fino a 25.000 euro per imprese, lavoratori autonomi, partite IVA, insomma, da lunedì scorso possono essere richiesti, quindi in questa settimana le domande dovrebbero essere andate avanti, forse sono anche già stati erogati. In realtà ci risulta che ci siano parecchie difficoltà, così riferiamo anche sul Sole 24 Ore oggi, ma vogliamo anche il vostro parere, la vostra esperienza, e allora potete raccontarci il tutto all'800 24 00 24, se volete parlare in diretta con noi, oppure scriverci 349 238 6666 Accettiamo messaggi SMS e anche messaggi WhatsApp a questo numero. Prestiti fino a 25.000 euro, poi nei prossimi giorni dovrebbero attivarsi anche gli importi maggiori, ma per intanto questi potrebbero essere i soldi veri, insomma, che qualcuno riesce a prendere. Riepilogheremo il tutto con anche qui una firma nota ai lettori del Sole 24 Ore, Alessandro Germani, dottore commercialista, che è un specialista oramai, forse lo è diventato anche suo malgrado, glielo chiederemo, di questo tipo di sostegni. Tutto ciò premesso, caro Peter, ti vedo che sei lì, che dici adesso qua che cosa mi toccherà fare. Ma sai che devi fare? Devi mandarmi una sigletta per il giornale radio del risparmio. Deborah Rosciani e Mauro Massa risolvono tutti i problemi di cassa. Allora, partiamo intanto con una dichiarazione importante del Ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, che ha segnalato la sua soddisfazione per il fatto che è stato aggiornato il protocollo delle parti sociali per quanto riguarda la tutela della salute dei lavoratori sul posto di lavoro. Lo avete ascoltato poco fa nel giornale radio, il protocollo del 14 marzo è stato appunto aggiornato in previsione di questa ripartenza di cui abbiamo parlato. Il ministro, la ministra, dice il lungo confronto con le parti sociali si è concluso in modo proficuo e positivo. Un confronto dal quale, in vista dell'avvio della fase 2, la tutela della salute di tutti i lavoratori esce ulteriormente rafforzata ed è un ulteriore passo avanti, conclude appunto la dichiarazione della ministra Catalfo, è un ulteriore passo avanti per garantire alle nostre imprese di ripartire. Lo avete letto un po' su tutti i giornali, ci sono i valori dell'IRPEF per quanto riguarda le dichiarazioni dei redditi presentate nel 2019 e quindi basate sui redditi, sui guadagni nostri percepiti nel 2018. Devo dire che ormai sembra proprio un'era geologica fa leggere queste dichiarazioni. Comunque, sostanzialmente si apprende che sono esclusi dal pagamento dell'IRPEF o non pagano IRPEF per via appunto delle detrazioni o del reddito basso 12.600.000 italiani e quasi la metà dei redditi si colloca al di sotto dei 15.000 euro, il 44% per la precisione. Tutti i valori sono esplicitati sui giornali, io vi rimando, naturalmente non potrei fare altrimenti, a pagina 31 del Sole 24 Ore, dove Marco Mobili e Giovanni Parenti segnalano anche come è articolato questo prelievo IRPEF. L'IRPEF, come sapete, è l'imposta sulle persone fisiche, oramai è un'imposta a larghissima maggioranza governata da lavoratori dipendenti e pensionati, perché molti altri introiti sono in effetti dirottati su altre imposte, imposte sostitutive o altri tipi di imposte ancora, e quindi sostanzialmente l'IRPEF fotografa solo una parte del nostro andamento economico, quella appunto più relativa ai redditi cosiddetti fissi, insomma il lavoro dipendente e a coloro che percepiscono una pensione. Torniamo sulla questione dei 600 euro, non quelli erogati dall'INPS, ma quelli erogati come reddito di ultima istanza dalle casse professionali, quindi stiamo parlando di avvocati, medici, dottori commercialisti, ragionieri, giornalisti, psicologi, eccetera, eccetera. Insomma, tutti quei professionisti che sono iscritti alle casse di previdenza professionali. E qui c'è un problema perché, come avevano già segnalato dalle stesse casse, dagli stessi vertici delle casse, i fondi che sono stati messi a disposizione non sono sufficienti, quindi si attende che qualcuno dica se arrivano fondi sufficienti per tutti. L'allarme ieri è stato ribadito dall'Associazione di Antiprevidenza, appunto la ADEP. La ADEP ha segnalato che sono arrivate 481.629 domande, sono state ammesse 451.000 domande, ce ne sono 8.000 ancora in lavorazione, quindi potrebbero diventare 460.000, però i fondi, l'abbiamo detto anche qui a due di denari nei giorni scorsi, arrivano a coprire soltanto 333.000 soggetti. Insomma, manca un po' di risorsa, un po' di denaro per coprire le casse, aspettano di sapere che cosa devono fare. Poi c'è stato, lo ricorderete, anche quella correzione nel cosiddetto decreto liquidità, il decreto legge numero 23, che ha imposto di non erogare questo tipo di provvidenza, questo tipo di bonus a coloro che avessero più iscrizioni, iscrizioni in più posizioni, e quindi questo ha comportato anche dei ritardi nell'erogazione. L'allarme dell'ADEP speriamo venga colto rapidamente dal governo, magari già con il famoso decreto aprile, potrebbe diventare un decreto dei primi di maggio, ma insomma poco importa che sia la data, importa quello che sarà il contenuto. E infine una decisione della Corte di Giustizia Europea che, beh, in questi tempi risulta un pochino così data nel vuoto, perché stiamo parlando di prezzi dei voli. La Corte UE ha dato torto a Ryanair con una sentenza che è stata resa nota ieri. Perché? Perché ha detto, non solo a Ryanair ma a tutte le compagnie aeree, che devono indicare chiaramente, sin dalla pubblicazione delle loro offerte su internet, qual è l'IVA che viene applicata ai voli nazionali, quali sono le tariffe di pagamento con la carta di credito, quali sono gli oneri per il check-in. La Corte di Giustizia si è pronunciata appunto a proposito di un ricorso presentato da Ryanair contro l'antitrust e ha ribadito che ci deve essere, insomma, la massima trasparenza per quanto riguarda i costi connessi alla prenotazione di un aereo. E allora questa credo potrebbe anche essere la nostra ultima notizia per il giornale radio del risparmio. Vedo che già il nostro ospite è in attesa, e allora, senza por tempo in mezzo, ascoltiamo il Dillo a due di denari. Dillo a due di denari. Pensate come eravamo messi male, come siamo messi male, come saremo messi male. È bastato un mese di non lavoro, eravamo tutti in... Pensate come eravamo messi male, cioè vuol dire che le nostre attività produttive, sia in proprio che dipendenti, cioè erano chiaramente tirati a come delle corde di violino, cioè tutti indebitati con mutui, finanziamenti personali, tutti a vivere comunque al limite delle nostre possibilità, a me compreso, e pensate, cioè veramente incredibile, cioè siamo tutti sull'orlo del precipizio. E i nostri ascoltatori sanno, quelli che ci ascoltano tutti i giorni, questo era già un messaggio, un grido di qualche modo di dolore, ma anche un po' di stupore, che veniva da un ascoltatore. Diceva: ma allora davvero siamo così risicati? Non abbiamo tutte queste disponibilità che pensavamo di avere, oppure siamo solo molto preoccupati? Ne abbiamo parlato a lungo nella puntata di ieri dedicata appunto a investire in formati, quindi ne abbiamo parlato con degli esperti, gestori del risparmio ed esperti della materia. Vi invitiamo sul nostro sito www.radio24.it per riascoltare quello che ci hanno detto, le considerazioni che ci sono state proposte da Fabio Galli, il direttore della di Assogestioni, e da Lorenzo da Bini Smaghi, che invece è di Arca Fondi. Il tutto sul sito di Radio 24. E adesso invece andiamo al primo argomento, il petrolio. Abbiamo una canzone apposita. Ma oramai, come cantava il grande Rino Gaetano, penso che il litro di benzina, insomma, forse in qualche paese, credo negli Stati Uniti, lo diano anche a meno dell'acqua minerale. Ma c'è un esperto di valore mondiale collegato, perché sottrarre tempo a lui? Benvenuto a Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia, buongiorno. Buongiorno e grazie per il mondiale. Beh, come minimo, insomma, adesso non vorrei averle mancato di rispetto. Ma no, perché uno che segue comunque il petrolio è una tale commodity globale che diventa mondiale per forza, anche se lo fa da una settimana. Ecco. Cioè, allora, non so da quale cosa vogliamo cominciare. Innanzitutto, dunque, abbiamo capito questo, abbia pazienza, io faccio un po' così il portavoce di quelli che non sanno, ecco, sono il primo tra quelli che non sanno. sono crollati i future, perché il petrolio non è che proprio si compri materialmente, cioè che uno va in un certo posto e compra un barile e se lo porta a casa, non funziona così. Si fanno delle prenotazioni, per così dire, che si chiamano future, e chiaramente poi quando si arriva in vicino alla scadenza si vede se il prezzo che era stato fissato prima va corretto al rialzo o al ribasso. Fin qui sto dicendo delle cose sensate, Tabarelli? Sì, sensate. Ecco, però cos'è successo? Perché allora a un certo punto addirittura c'è stato un valore in negativo? Nessuno voleva più il petrolio che aveva prenotato? Allora, guardi, sì, una cosa del genere, c'è stato un incidente che capita raramente, ma che è proporzionale al cataclisma che c'è stato sull'economia globale, come diceva l'ascoltatore prima, ha registrato, cioè si è messi male, il petrolio ha avuto un crollo della domanda del 30%, eravamo a 100 milioni di barili al giorno e si è sceso a 30, di 30 a 70 in questi giorni. I produttori fanno quello che possono, perché chiudere i pozzi non è come chiudere i rubinetti di casa, perché si distruggono i pozzi. Hanno ridotto, stanno riducendo di 10-15 milioni, non è sufficiente, da questo un crollo e speculazione, negli Stati Uniti c'è molta finanza che si scarica su queste borse merciti che attirano da sempre, esistono da sempre questi mercati, in particolare negli Stati Uniti, e lunedì scorso, il 20 aprile, c'è stato questo evento clamoroso, perché molti avevano acquistato dei contratti con consegna immediata, cioè maggio, che chiudeva il 21, cioè martedì, avevano acquistato a $18, speravo di rivenderlo a 21, 20, invece il prezzo è continuato a scendere a 10, 5, poi quando vedevano che si avvicinava a zero hanno buttato ordini di vendita che erano giganteschi, non c'era nessuno che comprava, se non comprava a prezzi negativi, cioè pertanto è stato un evento che non ha senso nei mercati, perché un prezzo negativo equivale a dire porta in discarica. È un paradosso, è quasi quando appunto paghiamo qualcuno perché ci liberi di qualcosa, esatto, no? Un elettrodomestico vecchio, che so, una cosa del genere. Sì, una cosa del genere accade infatti nel 1931, sempre nel Texas, che anche adesso tutte queste vicende ruotano intorno al Texas. Allora ci furono un tale eccesso di offerta, scoprirono nuovi giacimenti, ci fu la Grande Depressione, eccesso di offerta, c'erano questi laghi di petrolio che nessuno riusciva a fermare, perché ripeto, i pozzi quando partono, è come nel film Il Gigante, esplodono proprio, che sono le pressioni immense, e questi chiamavano della gente per portare via il petrolio da questi laghi, perché non si sapeva dove mettere e pertanto era un prezzo negativo. Ecco, sono delle situazioni eccezionali, invito tutti, perché la prima dei mercati a termine, cioè i future, sono una delle cose più interessanti e complicate anche dell'economia, è il passaggio fra mercato, economia reale e economia finanziaria. Tutti quelli che vogliono saperne di più basta che vadano sul NYMEX, digitano su Google NYMEX CME Group, io vedo in questo momento la pagina, perché la cosa più interessante rispetto a quando io cominciai a studiare, quando partirono nel 1983 questi mercati, è la grande diffusione di informazione. Ecco, questa è la prima funzione che hanno questi mercati e queste strutture di prezzo, è diffondere affermazione. Adesso grazie alla tecnologia è tutto più facile e pertanto è possibile andare a vedere le quotazioni che io vedo questa mattina, la prima, quella di giugno, è a $16. E anche l'altro giorno quello che ci ha detto quel meno 40 è comunque un termometro di un cataclisma dell'economia globale e anche del petrolio. Allora, il sito, se volete saperne di più, se avete curiosità, cmegroup.com, lo dico un po' così come lo leggo, perché senza punti di sorta, e lì trovate appunto tutta una serie di informazioni aggiornate. Ma allora veniamo all'altro grande tema, Tabarelli. Appurato che l'altalena e addirittura il percorso in territorio negativo è qualcosa di eccezionale, ma che può accadere, veniamo invece all'altro grande mistero: il prezzo, quando andiamo a fare rifornimento, chi può, chi è autorizzato a muoversi naturalmente, non cala con la stessa rapidità. Non parliamo poi del fatto che non ci pagano per fare il pieno, ma questo insomma mi sembrerebbe davvero un pochino un mondo utopico. Perché il prezzo si riflette così lentamente, cioè, o meglio, perché sul prezzo si riflette così lentamente l'andamento mondiale delle quotazioni? Prima di tutto le tasse. Questa mattina un ottimo prezzo per la benzina è 1,4-1,45. Di questi facciamo 1,41, le tasse questa mattina sono quasi un euro. Pertanto ogni variazione del prezzo internazionale si scarica con effetti attenuati. Il prezzo internazionale della benzina, se uno potesse prendere un carico da 30.000 tonnellate, che sono 40 milioni di litri, il prezzo senza tasse e senza costi di distribuzione stamattina è 13 centesimi al litro. Arrivare a 1,40, che oggi ce ne vogliono parecchi. C'è lentezza, però ricordiamoci che rispetto a fine anno siamo quasi 20 centesimi in meno rispetto a 3 mesi fa. Insomma, scende lentamente, quello è vero, c'è spazio per altri 10-15, però in questi giorni i volumi sono inferiori ed è difficile scaricare i costi di distribuzione su volumi che si sono dimezzati in base alle statistiche ufficiali. Certo, perché marzo. Ovviamente in tutto il mondo si viaggia meno, non è solo un problema italiano, quindi certo, c'è stato un crollo dell'utilizzo di carburanti, la richiesta di carburanti, e questo fa abbassare anche il prezzo. Insomma, non è una di quelle cose che si imparano proprio nella realtà normale, neanche andando ai corsi di economia, mi verrebbe da dire. Ma secondo lei il prezzo del petrolio, perché qualche ascoltatore ci chiede, ma allora potrebbe essere interessante però investire sul petrolio? Allora, premesso che eviterei di comprare direttamente future o altre cose del genere, ci sono però degli strumenti, ad esempio dei fondi, che investono sul petrolio. Secondo lei l'andamento, non le chiedo di avere la sfera di cristallo, però è prevedibile che ci possa essere un po' di risalita di nuovo di questi valori? Ma certamente sì, ma questo non è una previsione straordinaria, perché basta, ripeto, guardare sul sito del NYMEX e si vede che le scadenze lontane, ad esempio a dicembre di quest'anno, sono già a $30, 29, e se vado al 2028 siamo a $50, cioè tutti prevedono che ci sia un rimbalzo, ovviamente l'intensità di questo rimbalzo. Premesso che io sto lontano da questi strumenti, suggerisco di essere molto cauti, sono molto speculativi e ci si può far male, però le mie previsioni sono al rialzo, ecco, questa è una situazione momentanea, ci vorrà del tempo per smaltire tutte le scorte che abbiamo accumulato in questi giorni, perché tra l'altro è un problema che non abbiamo risolto, perciò i prezzi, quella prima scadenza che è oggi giugno, quota $16, potrebbe andare giù, 10, potrebbe anche cadere di nuovo quello che è caduto a maggio, che è dato negativo, perciò bisogna stare attenti a comprare della roba con consegna immediata, mentre non so, dicembre 2020, che è oggi a $29, secondo me potrebbe essere anche 40 fra qualche settimana, appena ripartiamo. Ecco, noi non dobbiamo dimenticarci che questo paradosso, del resto è spettacolare per queste ragioni il mercato del petrolio, cioè noi fino al 2014, che la domanda era inferiore di 10 milioni di barili al giorno, avevano dei prezzi che erano sopra i $100 per barile, e pertanto quando poi si dava per scontato che potesse andare a 150, 200, nessuno faceva ipotesi che scendesse a 90. E questo accade, ecco, lei ha parlato prima della sfera di cristallo, perché veramente è impossibile prevedere il prezzo del petrolio. Certo. Allora, grazie a Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia, ci ha aiutato a capire un po' di più che cosa è successo per il petrolio, cosa potrebbe succedere, cosa sta succedendo al distributore per quanto riguarda noi che facciamo rifornimento, e anche magari chissà quello che potrebbe succedere nel breve. Mi pare di capire, la tendenza ribassista non sembra invertirsi, ma probabilmente se guardiamo un pochino più in là, magari quando avremo un vaccino o via via che ci saranno le riaperture nei vari paesi, dovremmo vedere invece una tendenza al rialzo. Penso possiamo sintetizzare così, no Tabarelli? Sì, sì, sì, perché il dominio del petrolio purtroppo per l'ambiente, ma dico con cautela, ecco, non sono contro il petrolio, però è destinato a rimanere intatto, dal resto anche questi giorni sul totale dell'energia consumata il petrolio rimane sempre una delle prime fonti, nei trasporti conta per il 97%, le ambulanze vanno con la benzina o col diesel, col gasolio, la plastica che se ne fa per fortuna un uso altissimo in questi giorni negli ospedali, si fa con la nafta che è uno dei principali derivati del petrolio, quando gli aerei torneranno a viaggiare viaggeranno col cherosene che è un altro derivato, le stesse strade, le stesse piste ciclabili si fanno con il bitume, che è la parte peggiore del fondo del barile, e i costi sono, questi costi di produzione, $10 sono troppo bassi, perché non dobbiamo neanche dimenticarci che quando eravamo a $100 dicevamo che era una risorsa finita. Esatto. È infatti finita. Mi veniva in mente quando lei citava queste $100-150 di previsione, dicevo certo che per essere una risorsa che stavamo abbandonando, dicevamo tutti che stavamo abbandonando, beh insomma forse sì. L'abbandono è ancora lontano. Sì, perché se ne consuma tantissimo, c'è sempre tutti questi 150 anni di storia del mercato, grandi eccessi, grande carenza, e l'unica certezza è che più va giù adesso e più rimbalzi in futuro, ma non bisogna dimenticarsi che per fare ripartire un giacimento, ed è questo il grande rischio, e qua però entriamo nella politica, è un altro discorso, e il rischio è che venga distrutta capacità produttiva che ci viene necessaria fra qualche settimana o qualche mese o secondo alcune qualche anno, secondo altri speranzosi mai. Perciò godono che l'Arabia Saudita che la vicenda sia così. Va bene, staremo a vedere. La ringrazio ancora. Grazie a voi. Grazie a Davide Tabarelli. E adesso, senza neanche parlarne, andiamo proprio al volo da Livia Zancaner, che ci aggiorna sulle borse. Madamina Debora oggi a casa sta, e Messer Mauro da solo cavarsela dovrà. Di denari. Pensa solo ai soldi, soldi, come se avessi avuto soldi, soldi. Buongiorno Meazza, chiamo per il finanziamento fino a 25.000 euro. Ho fatto richiesta alla mia banca attraverso un'app apposita, ma ad oggi, nonostante mi avessero detto di rispondermi entro 48 ore, non ho ancora avuto risposta. Chiediamo come va a chi ne sa, così faccio anche una rima che consegno, la regalo a Mahmood se la vuole. Chiediamo come va a chi ne sa, e chi ne sa è Alessandro Germani, che è dottore commercialista, partner dello studio GDC Tax di Milano, è un esperto del Sole 24 Ore, è una firma abituale che non so con quanta volontà e con quanta determinazione si è ritrovato ad essere uno dei maggiori esperti di questo prestito fino a 25.000 euro fissato, partito con il decreto legge numero 23, cosiddetto decreto liquidità. Innanzitutto benvenuto a Due di Denari, dottor Germani. Grazie, grazie a tutti. Allora, che succede? Perché questo prestito, che dovrebbe essere stato presentato come una cosa velocissima, uno va in banca, presenta due cose, addirittura via mail, insomma, senza bisogno di burocrazia né niente, viene erogato il prestito con una fase, anche se adesso non vorrei fare confusione, ma di preammortamento, cioè insomma non si rimborsa prima dei due anni, che siano trascorsi due anni, mi dia conferma se dico qualche stupidaggine, mi fermi subito. Così. Ecco, e doveva essere tutto facilissimo, e invece gli ascoltatori già, guardi, è bastato annunciare il tema e piovono i messaggi, per così dire, grazie come sempre dell'affetto con il quale ci seguite, e gli ascoltatori dicono non è così, la mia banca è differente, però questa volta non è in senso positivo. Che succede? Allora, quello che succede, proviamo a fare un po' di ordine in questo discorso. Questa è effettivamente la misura che è stata messa in pista per prima, perché teoricamente c'è tutto il panorama delle aziende più grandi che sono interessate in realtà dai meccanismi di SACE, e lì ancora non si è addivenuti ad un punto. Mentre per quanto riguarda le aziende minori, tutte quante le PMI e poi soggetti anche più piccoli, effettivamente c'è il Fondo Centrale di Garanzia, che è una misura collaudata che esiste da una ventina d'anni, e in particolare poi c'è questa cosiddetta lettera M, che è proprio il caso specifico dell'ascoltatore, ovvero sia il mini prestito da 25.000 euro. Qui effettivamente il Fondo Centrale di Garanzia e il Mediocredito Centrale, che è l'ente gestore, si sono messi in pista subito, perché nell'ambito delle varie misure che riguardano per esempio proprio il Fondo Centrale, si è dato proprio spazio a quella che sembrava essere, da un punto di vista anche sociale, la più importante. E effettivamente, diciamo, in un lasso temporale abbastanza rapido sono stati, è stato predisposto un po' tutto a livello di modulistica e di portali. Probabilmente c'è anche da considerare un aspetto, perché notizia proprio tra ieri e oggi, ovvero sia lo stesso Mediocredito Centrale invitava le banche a veicolare le domande magari in serata, in modo tale che non ci siano che ci sia più libertà, più capacità anche a livello di reti e di sistemi IT. È anche vero che probabilmente le banche più grandi si sono rivolte per questa attività a dei servizi esterni, quindi a delle strutture di servizio fuori dalla banca. Allora questo forse potrebbe comportare un minimo di allungamento della tempistica, però effettivamente è tutto quanto in pista, e quindi darei un po' di fiducia all'ascoltatore sul fatto che a breve comunque sia questi 25.000 dovrebbe vederli. Dovrebbero arrivare. Poi, sì, l'iter è veloce, non c'è nemmeno un giudizio di merito da parte del Fondo Centrale di Garanzia in questo ambito. Dà la garanzia al 100%, ma senza controlli, per così dire. Quindi l'iter dovrebbe essere... Non viene valutato il merito creditizio, questo dice... Non viene valutato perlomeno dall'ente che garantisce a livello centrale, perché qualche ascoltatore ci sta dicendo: sì, ma la mia banca invece mi dice che vuole comunque sapere qual è il mio merito di credito, qual è la mia affidabilità, insomma. È una prassi che sì, le torna, Germani? Sì, allora il discorso è questo. Per questo ambito qui, così semplificato, dei mini prestiti, effettivamente è prevista una garanzia del 100% da parte del Fondo Centrale, senza istruttoria fondamentalmente da parte del Fondo Centrale. Tant'è vero che si diceva anche che le banche potessero erogare anche prima, fondamentalmente, di ricevere un assenso da parte del Fondo Centrale, che è automatico da questo punto di vista. Però dobbiamo considerare un altro aspetto che è altrettanto chiaro, ovvero sia che la banca poi resta comunque lei libera di stabilire se concedere o non concedere. Quindi la facoltà della banca di decidere se concedere o meno il prestito, comunque sia, sussiste. Quindi ci può essere una valutazione della situazione personale. Tra l'altro io vi segnalo, così oggi il Sole 24 Ore dedica un'intera pagina, la pagina 11, proprio a questo tema. C'è una intervista con una serie di dichiarazioni dell'amministratore delegato di Mediocredito. Tra l'altro faceva cenno a Laura Serafini, la collega Laura Serafini, proprio anche di questo tema, che ci confermava il dottor Germani, cioè la possibilità che alcune domande, alcune grandi banche si siano rivolte a service esterni, quindi abbiano di fatto esternalizzato la procedura, e questo potrebbe allungare i tempi. Trovate appunto un'intera pagina oggi sul Sole 24 Ore. Vorrei sentire un intervento di un'ascoltatrice, Silvia da Forlì, perché prosegue nel tema che stiamo affrontando in qualche modo in questo filone che abbiamo a testa aperto con il dottor Germani. Silvia, buongiorno. Buongiorno. Ci dica, Silvia. Allora, io lavoro in una piccola azienda. Ho fatto richiesta alla banca con cui lavoriamo, che è una banca cooperativa, come poter accedere a questo prestito. Brevemente, allora, ho scoperto che il preammortamento è obbligatorio, ma poi sono andata a vedere e ho visto che era così. Il tasso di interessi all'1,2%, però non mi hanno saputo dire se gli interessi sono solo per il periodo di preammortamento e il resto è a tasso zero, diciamo dal terzo anno in poi. Poi ho chiesto: ma qualora, che cosa vuol dire garanzia dello Stato 100%? Non ha saputo dirmi, gli ho detto, cioè, sarebbe a dire che se io non dovessi, diciamo, onorare fino in fondo il pagamento del prestito, garantirebbe lo Stato per me? Con chi sarei debitrice io? Con lo Stato, con la banca? Mi ha detto, lei sarebbe debitrice con la banca. Allora io ho chiesto, ma scusi, la garanzia del 100%? Che significa? E allora, sì. Non ci sono state risposte. No, ma lei, Silvia, coglie, effettivamente era una domanda che stavo per porre a Germani. Ecco, c'è la garanzia dello Stato, ma che significa? Allora, se il debitore è insolvente, con chi deve poi trattare? No, dovrà poi trattare. Sì, sì, in questo caso il fatto che ci sia la garanzia al 100% da parte dello Stato significa che, lasciatemi dire proprio in termini semplici, la banca non rischia nulla, quindi l'eventuale default, quindi l'eventuale difficoltà, la mancanza di rimborso da parte dell'impresa, chiaramente creerà un onere direttamente per quanto riguarda lo Stato e non la banca. Perché è proprio questa misura del 100% che fa sì di escludere fondamentalmente la banca da qualsiasi problema sotto questo profilo. Quindi sarà poi lo Stato a rivalersi in qualche modo sul debitore, se del caso? Fondamentalmente sì, perché con garanzia, diciamo con garanzia al 100%, la mancanza di rimborso fa sì che di fatto la banca venga comunque ristorata nella sua posizione e quindi poi quella posizione di credito sarà in capo allo Stato. Certo, allora dobbiamo fermarci per le informazioni sulla viabilità. Allora ne approfitto, perché siccome in tanti ci avete chiesto, ci potete ripetere il sito che ha indicato Davide Tabarelli per quanto riguarda il petrolio? Io ve lo ripeto, è un sito, mi sembrava una cosa un po' per iniziati, ma invece mi fa piacere che ci sia tanta curiosità. CME, proprio così come ve lo dico, cioè Como, Milano, Empoli, cmegroup.com, e lì ci sono le quotazioni, ce l'ha indicato Davide Tabarelli parlando appunto di come si è comportato il petrolio questa settimana. Adesso traffico. Promo 24. Sono tanti i settori in crisi a causa del coronavirus. Uno dei più colpiti è il turismo ed eventi, tra i più importanti motori dell'economia e della cultura italiana. I principali operatori del turismo chiedono a gran voce un fondo straordinario per fronteggiare la crisi. Le associazioni Astoi Confindustria Viaggi, FTO e importanti operatori del comparto hanno promosso il Manifesto del Turismo per l'Italia, che con l'hashtag Ripartiamo dall'Italia chiede il sostegno di tutti per la ripartenza del turismo. Operatori del settore e consumatori possono aderire al manifesto sulla piattaforma change.org. Salviamo il turismo, salviamo l'Italia. Info e aggiornamenti su ripartiamodallitalia.it. Due di denari. Ho appena assistito in diretta dal mio ottico a una chiamata del suo commercialista dove la sua banca gli ha chiesto il mondo. Quindi, ragazzi miei, non se ne viene fuori con le banche, non se ne viene fuori, mi dispiace, questo è il sistema. Un abbraccio a tutti. Pazienza. È un esercizio di pazienza tutto quanto, il lockdown, la quarantena, la richiesta, l'attesa dei 600 euro, molti ci stanno ancora scrivendo, non l'ho ricevuto, l'abbiamo potuto chiarire in questi giorni, fino al 30 aprile l'INPS ha detto che continuerà ad erogare, quindi abbiamo tutti pazienza, ha pazienza anche Alessandro Germani che stiamo tormentando con le domande delle quali ci facciamo portavoci per quanto riguarda appunto questa erogazione di 25.000 euro. Ma Germani, le devo segnalare che questa mattina l'ABI ha mandato una precisazione, una sorta di supplemento di circolare spiegando che il finanziamento fino a 25.000 euro prevede che non possa essere utilizzato per compensare alcun prestito preesistente anche nella forma di scoperto di conto corrente. Se ci fosse questa compensazione ci sarebbe un avvio del rimborso prima dei 24 mesi facendo decadere la garanzia. Perché qualcuno pensava appunto chiedere il finanziamento per in qualche modo riallineare un prestito precedente? Questo poteva essere il motivo? Sì, allora il motivo potrebbe essere quello che è stato chiarito effettivamente dall'ABI, ma già, se non vado errato, il direttore generale dell'ABI, il dottor Sabatini, lo aveva precisato in un'audizione e poi è stato richiarito anche oggi, è che fondamentalmente per quanto riguarda questo ambito dei mini prestiti non debbono entrare nel contesto di rinegoziazioni, ovvero sia questa deve essere nuova finanza che deve servire effettivamente all'impresa per superare le problematiche di questo momento del Covid-19. Tant'è vero che poi nello stesso allegato 4 bis, che è quello che è presente sul sito del fondo di garanzia e si va a compilare e lo si dà alla banca, l'impresa indicherà poi le sue esigenze, che tendenzialmente sono esigenze di liquidità, perché con questi soldi l'impresa dovrà pagare i fornitori oppure pagare i dipendenti o comunque sia comprare delle scorte per la ripartenza. Quindi da questo punto di vista è stato chiarito espressamente che l'ambito della lettera M, cioè appunto l'ambito dei mini prestiti, è fuori da quello che può essere una pratica di rinegoziazione. In questo senso l'ABI ha detto che le banche debbono essere molto attente a non seguire questa pratica che viene, lasciatemi dire, censurata. Allora, sostanzialmente, Germani, questo prestito fino a, diciamo sempre, fino a, non sono 25.000 euro, ma fino a 25.000 euro, non è un'operazione finanziaria, quindi non è che può entrare nell'ambito di un rimettiamoci d'accordo sul mio scoperto di conto piuttosto che sul fido, esatto. Ma è invece un prestito che viene erogato e sul quale non ci sarà richiesta di rientro per almeno 2 anni, è questo il un po' il caposaldo della materia, giusto? Sì, no, addirittura la scadenza che è prevista per quanto riguarda il mini prestito è sostanzialmente fino a 72 mesi. Ah, fino a, scusi. Temporale, l'ambito temporale è fondamentalmente quello dei 6 anni con 24 mesi di preammortamento, ovvero sia il fatto che per 24 mesi non si paga sostanzialmente nulla, non si rimborsa nulla a livello di capitale. Grazie di avermi corretto, perché su questa cosa c'è già abbastanza confusione. Questo mi permetta, poi serve, perché prego. Serve appunto a dare respiro alle imprese. Ci si sta chiedendo anche se siano sufficienti 6 anni, perché probabilmente in una situazione di questo genere potrebbero essere anche pochi. Quindi assolutamente, comunque sia, noi dobbiamo a livello di sistema cercare di dare il più ampio respiro alle imprese. Allora, poi c'è il tema, però, e già l'abbiamo introdotto, del comunque la banca può stabilire delle sue procedure, dei suoi percorsi. Allora, qui abbiamo 2 ascoltatori. Cominciamo dalla notizia buona, una volta tanto. Sentiamo Marco, mi pare. Sì, Marco, che ci ha chiamato dalla provincia di Milano perché ha un'esperienza, se capisco bene, positiva. Marco, buongiorno. Sì, esatto, buongiorno. Allora, vi comunico che praticamente noi abbiamo eseguito tramite la PEC del nostro istituto di credito lunedì pomeriggio alle 17 è stata inviata e io ieri pomeriggio alle 16 ho avuto l'accredito dei 25.000 euro. Beh, noi ne siamo felici naturalmente, speriamo che la sua sia solo una tra le tante tantissime storie positive. Grazie. Allora, solo una piccola precisazione. Quando io ho contattato il mio consulente aziendale della nostra filiale, praticamente i primi tempi ne sapeva meno di noi, perché era una procedura che non dovevano fare loro inizialmente, perché si fa riferimento a un sito unico dell'istituto di credito. Dopodiché questa pratica viene passata alle singole filiali e le seguono i referenti sul territorio, diciamo così. Però per voi poi è stata voi vi siete accorti che è stata modificata questa prassi, se è stato tutto così veloce? No, nel senso comunque che proprio inizialmente, probabilmente, poi tra l'altro, piccolo inciso, è stata la prima pratica che sono riusciti a eseguire, e detto dal consulente ci ha messo quasi una giornata. Ti auguro che adesso sia un po' più veloce. Questo ci fa capire. Consiglio vivamente i 60 mesi, non i 72, perché comunque 60 mesi sono, cioè, lo 0,75 di interessi. Già i 72 si passa all'1,20. Quindi ecco, l'interesse. Grazie Marco, grazie della sua testimonianza. Germani, dottor Germani, che ci sta aiutando a fare chiarezza su questa cosa, ma il tasso di interesse è fisso, è prefissato, la banca ha margini, come funziona? No, allora, non è fisso, ma è un tasso che è ancorato ad una serie di parametri che sono descritti dalla norma, peraltro sono riusciti a obiettivamente a trovare un meccanismo che non è particolarmente facile, perché fa riferimento a una serie di indici nemmeno troppo utilizzati. Comunque, per quanto per i conteggi che sono circolati un po' in questi giorni, si è parlato sostanzialmente di un ambito dell'1,2% o al massimo dell'1,8%. Questo è il contesto in cui ci si muove. Leco, glielo confermo, perché così ci stanno anche scrivendo via WhatsApp al 349-238-6666 gli ascoltatori, facendo una media del pollo immediata tra diversi messaggi che sono arrivati. La forchetta che lei ci ha dato, 1,2-1,8, sembra essere quella appunto all'interno della quale si muovono gli istituti. Roberto invece, dalla provincia di Monza e Brianza, ha una storia, diciamo così, speculare a quella che ci ha raccontato Marco. Dico bene, Roberto? Buongiorno. Sì, buongiorno. Ho sentito anche la precisazione prima dell'ABI e queste cose. Io volevo tranquillizzare il vostro referente. Le banche, sia tranquillo, che non scontano, diciamo, i debiti pregressi. Sanno già ben loro cosa devono fare, non corrono questo rischio. No, la cosa che fa un po' arrabbiare è perché ti chiedono prima una documentazione, poi te ne richiedono un'altra. Poi adesso, oggi, non più di un'ora fa, mi è stata richiesta ancora di ripresentare tutti i moduli che già avevo ripresentato, non si capisce perché, con una certificazione, l'aggiunta di oggi è quella lì. Quindi sostanzialmente lei ha il sospetto che ci sia un pochino così, o di troppa burocrazia, o anche una volontà di tirare un po' in lungo, senza che facciamo nomi e cognomi, per carità, però così, no, parliamo in generale. Ci stanno giocando, solo che purtroppo non capiscono che in questo momento la gente ha bisogno di liquidità. Io mi occupo di commercio all'ingrosso, sì, e servo la ristorazione. No? Capisco. Pensi che tra i miei clienti ho anche l'ABI. Ecco, vabbè, potrebbe prenderli per fame. Scusi se mi permetto di fare dell'ironia, la situazione invece è serissima. Sentiamo Alessandro Germani. Queste politiche un po' difformi dei vari istituti sono un po' nelle cose, ma uno può anche rivolgersi a un istituto dove non ha rapporti, giusto? Sì, uno può rivolgersi tranquillamente anche ad un istituto dove non ha rapporti. È chiaro che dove hai rapporti e dove ti conoscono e conoscono un po' anche quella che è la tua storia, probabilmente è più semplice. Ora, è anche vero che comunque la modulistica che è stata predisposta dal Fondo Centrale di Garanzia, che sta sul sito del Fondo Centrale di Garanzia, che è il cosiddetto l'allegato 4bis, nei limiti del possibile è comunque sia abbastanza semplice come elementi che vanno inseriti, e quindi poi a fronte di questo tendenzialmente la banca potrà chiedere ciò che serve, per esempio per testare quelli che sono i ricavi, perché poi consideriamo che come anche lei sottolineava prima, qui il massimo è 25.000 euro, ma è comunque sia bisogna rispondere comunque alla condizione del 25% del fatturato dei ricavi. Ecco, allora da questo punto di vista si guarda all'ultimo bilancio, all'ultima dichiarazione disponibile, questi sono elementi che la banca sicuramente chiede, però per come è stato architettato il modello, l'allegato 4bis è abbastanza semplice, quindi da questo punto di vista non si capiscono troppe difficoltà da parte delle banche, perché gli elementi sono quelli che vanno richiesti. E la garanzia mi viene da chiosare, la garanzia è pubblica, quindi insomma alla fine, certo, fatto salvo che non venga qualcuno, lo scialacquatore proprio, che se li vuole bere, ecco, diciamola così, però ecco, dovrebbe esserci una certa velocità nell'erogazione. Dico l'indirizzo internet, che è www.fondidigaranzia.it, lì trovate appunto già nella home page, appare online il modulo per i finanziamenti fino a 25.000 euro, scarica l'allegato 4bis, è quello di cui ci stava parlando Alessandro Germani, che ringraziamo perché siamo arrivati in chiusura. E allora ringraziamo Alessandro Germani, dottore commercialista, partner dello studio GDC Tax di Milano, esperto del Sole 24 Ore. Continuate a seguirlo sul Sole 24 Ore, seguite anche sul nostro forum internet le risposte che tra gli altri esperti anche Germani ha dato, www.forumcoronavirus.it, espertoRisponde.com/forumcoronavirus.it. Tutto ciò premesso, grazie a Peter Bescapea, Jacopo De Franchi e Marco Lombardo, e buon fine settimana a tutti.